Alibaba e i 40 ladroni. C'era una volta un boscaiolo molto povero, chiamato Alibaba. Ogni giorno doveva salire su per la collina in mezzo al bosco per raccogliere la legna. Poi la portava con i suoi due asini in città. Un giorno Alibaba stava caricando i suoi asini quando vide in lontananza un gruppo di uomini a cavallo. Alibaba si spaventò e decise di nascondersi tra i cespugli per osservarli. Gli uomini si fermarono davanti ad una grande roccia e poi il capo gridò: «Apriti, sesamo!» Improvvisamente la roccia davanti a loro si spostò e si vide l'ingresso ad una grotta. Il gruppo di uomini entrò dentro. Erano esattamente 40. Dopo che tutti furono andati via, la grotta si chiuse dietro di loro. Alibaba decise di affrontare la roccia e pronunciò le parole magiche: «Apriti, sesamo!» La roccia si spostò e Alibaba entrò nella grotta. Era pieno di oro e gioielli. Quegli uomini dovevano essere ladri e questo era il loro nascondiglio. Alibaba decise di portare con sé quanto più oro poteva. Mise l'oro in alcuni sacchi che caricò sui suoi asini. Poi nascose i sacchi sotto della legna e si diresse verso casa. Era già tardi quando arrivò a casa. «Cos'è successo?» gli chiese la moglie. «Sbrigati e vieni con me dietro casa per scaricare gli asini». Quando la moglie di Alibaba vide l'oro, disse subito: «Dobbiamo nascondere il tesoro». Pensarono di scavare un buco nel terreno, ma poi decisero che la cosa migliore fosse quella di costruire una botola segreta. Così la moglie di Alibaba andò in città con il viso coperto per incontrare un falegname. Disse al falegname ciò che voleva e che aveva bisogno di mantenere la sua identità segreta. Il falegname accettò di fare il lavoro. Così la moglie di Alibaba gli coprì gli occhi e lo condusse a casa. Il falegname rapidamente fece il suo lavoro. La moglie di Alibaba lo pagò, gli coprì gli occhi e lo portò di nuovo in città. Nel frattempo i ladroni erano tornati alla grotta segreta dove si erano resi conto che erano stati derubati. «Dobbiamo trovare chi ci ha fatto questo. Domani cercheremo in tutta la città quell'uomo», disse il capo dei ladroni. Il giorno dopo, i ladroni chiesero un po' in giro per vedere se riuscivano a sapere qualcosa su chi li aveva derubati, fino a quando un ladrone andò in falegnameria e disse: «Tu fai un bel lavoro, falegname!» E questi rispose: «Sicuro! Proprio ieri ho costruito una botola segreta in meno di un'ora. Portami in quella casa e ti pagheremo bene», disse il ladro. «Avevo gli occhi coperti, ma se mi bendate riuscirò a trovare quella casa». Quella notte il capo dei ladroni coprì gli occhi del falegname e così arrivarono a casa di Alibaba. Poi segnò la porta con una grande X in modo che quando sarebbe tornato con tutti i ladroni sarebbe riuscito a ritrovare la casa. Al mattino la moglie di Alibaba vide la grande X sulla porta. Per paura che fosse stato un ladrone, decise di fare una grande X in tutte le porte che c'erano attorno. Così, quando i ladroni tornarono a cercare la casa, non riconobbero quella giusta. Erano molto, molto arrabbiati. Quella notte il capo dei ladroni ritornò con il falegname, ma questa volta contò il numero di case in modo da non essere ingannato ancora una volta. Il giorno dopo, il capo dei ladroni bussò alla porta di Alibaba. C'erano degli asini con lui e ogni asino portava un grande vaso. «Sono un commerciante di petrolio ed io ed i miei asini stiamo camminando da molti giorni», disse il ladrone. «Mi chiedevo se potevamo riposare qui per stanotte». Alibaba, essendo un uomo gentile, fu d'accordo. Gli asini furono lasciati nel cortile e il ladrone andò in camera da letto. La moglie di Alibaba stava per accendere una lampada perché era buio, ma si rese conto che mancava il petrolio. Così andò fuori a prenderne un po', ma poi sentì delle voci provenire dall'interno dei vasi. Corse a riferire ad Alibaba quello che era successo, che subito corse a chiamare i soldati del sultano. Il capo dei ladroni uscì furtivamente e andò a dire agli altri ladroni: «È ora di uscire!» Ma in quel preciso istante arrivarono i soldati. I ladroni non fecero in tempo ad uscire dai vasi che caddero a terra e furono subito arrestati. Il sultano li stava cercando da molto tempo. Alibaba e sua moglie raccontarono tutto quello che sapevano sulla grotta segreta e sull'oro del sultano che avevano nascosto a casa loro. Per la loro onestà e per aver contribuito a far arrestare i ladroni, fu concessa un'importante ricompensa e vissero così felici e contenti. Fine.